maestre, viva la Spagna, viva il suo re, viva, viva, viva il suo re, padre della gloria e la santa fe, e il re, e il re, o Spagna, o Spagna, o Spagna, con la Spagna, io vengo a te, io vengo a te, a te, a te. Che gentile, la noce ambrosia, fiammingo, a noi pertien. Poiché la sta qui brilla, della Castiglia e la temernona, no, da temernona. Mostrar mi conquistar, la battaglia tempeste, un nuovo mondo. Noi legar sua fe e il sol giammai de caldi rai si sveste la dove impera il re giammai il sole giammai di rai si sveste dove impera il re. Yes. Andre so chiede e che pagar saprà il qual nobile mercede che il dritto a noi riviene. Un gran uomo, un eroe, un amico dei prori, delle imposte il signor al duca d'Alba. Hai tu a chieder grazia alcuna, che dove passi appena, cadi prona i suoi piè. Io trastrarmi, e non sia che il padre m'astento. Di grazia, fratine, voi che Grano e sei grano, ognun vedrà il tremar. E queste plebe vil, bene abbia ferir, il sol suo riguardar. Thank you. ferma che manda il gran saluto. Son chini gli occhi tuoi e il tuo labbro stavuto. Viva con noi! Viva il governator! Vito me tu! Tude, mastro gentil, tude, tater! O che me quella grini, viva il governator! E mi piace di più che la canti con noi qualche canto spagnolo! E no, di mia man solistanti io ti mollo! Folle sì, che di me che costui non è in sé! Orsù, la canzone spagnuola che inneggia il Duca d'Alba! La so cantare. Canta allora quello che ti par, ma canta lo si vuol. E tu per abominio per lor nulla di sacro va. Orben sì. Thank you. Oh! dei patiboli sol se petra noi rizzar. In che mai? Se in questa terra resta infelice ancora me lo devi segnare. Lo vedrai. Raffreda il cieco ardore. E dove? Innanzi a te. C'è. Mi pare di morire. Orben, e non rispondi a me. Ma non possio. Inerme io sono. Sgombri ognun. Tu sol di restar. Qual hai? Marcel! Non più! Marcel ti brucia, brucia di cui gli spaldi offrire il rifugio. E il tuo padre? Di lui alcun non mi parlò. Pur giunse nuova me che del nostro bel suol e tal crudele invasor fini malviti e miseri suoi giorni. E tua madre? Rispondi! La tolse il cielo e già un anno passò chi alla peresea ahimè ma ti ritroverò amate amate ahimè ore pria di morir alle mani d'Egmont non debbi un dì fidato. Sì, quel nobile Egmont, quell'eroe, quel ribelle, per sentir dell'onore i passi mi guidò a fini suoi fedel, mi sia sacro modello, se non la vita, la sua morte almen. Tutto sai, l'ira tua, ora può squarciarmi il sé. Io non sono, penso che il tuo cuore ignora il perdono, né provo terror, salir fo da forte il palco fatal, e venda la morte ben solo. Gli ardimenti mi appoglia l'ardor, mi spregia tormenti, il fiero suo cor, la patria solene, sicuro di sé, la sua nobiltà, non cerca mercè, la sua nobiltà, non vuole mercè, la patria solene. Ignora il perdono, mi spregio tormenti, il fiero soccorre, e la mia soccorre, salire fu da forte, il spregio tormenti, e venda la morte, per suolo sì, per suolo, per suolo natale, patria e saprà morire. Per la patria saprà morire. unirti non so, pietà mi spiri. Oh, compiangemi! Sì, ho pietà di tanto error, e ecco me segnal, alla qui impaziente parlò, o l'ignorato te, di lauri cingerai, fida in me, e le tue robuste annella, o le glorie o fagiol. La gloria, o te maglienta, e la vedo, io sto al fianco mio, tre gloria ti voglio, me, e arrei, dammi perdon. Io servì, lo presso, servì, lo presso, si faccia cader, no, libero lo voglio, e chiedo in cambio a te, o protervo garzon, riconoscente affetto, sol per tuo solo ben, ascolta un motto ancor. Quella magion or ben con la non de inoltrare il tuo piede, perché mai, perché mai no, non dei paventa per il tuo cor un errore insetato ti perderà di colei per lo porto e prenda il tuo. Io lo vo, già mai i miei colpi ti ardenti, come il poter interrogar non può. Di me stesso, io son signore, altre legge me non do, se chiamati è il mio cuore. Ti perdono, tornerei io a pedirto le mie vene, fuggiranti del mio segno, o Marcello guaio te. Hey! quella stel onde varcar le soglia lo impongo a te io doca d'alba di me stesso son signore perché Viva la piel! ti vuol si do. Raccogli tuoi di lor che prigione, che pei suoi giorni io tremo. C'è concesso elenco nesso Oh, muori tu. Parti, bugger. Parti, bugger. Sulla traccia. Sulla traccia. L'orba rete dalla caccia. Silenzio. Silenzio. E passa. E passa. Sono qui. Sono qui. Sono qui. Sono qui. Un sol sospiro. Non c'è più che passi grande. io. Ah, dai, dinanzi il tentore per vendicar. E laggiù il vittor a sempre vendicar. E tuo padre, padre mio sarà, mio sarà. Thank you. libertà, libertà grandiva, la fede in te, nel tuo popolo affiva, fa trionfare il nostro acciare, libertà, fa trionfare il nostro acciare. Libertà, libertà grandiva, la fede in te, nel tuo popolo viva, fa trionfare il nostro acciare. Quell'arciol bel giorno, il segno c'è, lo si sfondi. Tra poco. La mente tua delira, oramai tramonta il sol, muovete il cuore, e vuol narrar le spagne, presume o folla in me. D'Andesio! Torna in te. Spesso impeto e infido se del fiammingo petto palpitaro nobil cor e già qual sorte servi il tuo benefattor. Volea sfidar lo sdegno e ridene il dolor. E il mio cuore al suo contegno tutto invade ignoto orrore. Detti miei, tu porgi ascolto, arcano suon non giungi a te. Tra salir io mi sento, vacilla ogni mia fe. La lagrima riga il mio volto, e osi negarmi mercè. Questa immagine sacra per te, il dubbio mai rimane. Mia madre! E tu? E? Pace! Non è questa. O quale prezzo il nuovo affetto che il seminonda prepara a me. Sei quello che scorre dentro al suo petto. Sangue mio, ah sì, mio figlio egli, mio figlio egli, ah mio figlio egli. Ah, dal ciel nella folgor percosso, io fremo dal palmo d'oro. Che dare in un posso, né per pietà, che sogno beato il mio cor. Il cielo mi rapita. Che il mio nome portarti mette dunque orror. Pur sai chi sia. Mia sorella amor. Mia ben, mia vita. Grande sublime tu trovi. O te, figlio, tutto portarti qua, si quando tu bravi, io t'assaglio, in terrore, una volta mi chiami, si padre, mi chiami, si padre, sol che le braccia mi cingolse. A quel nome ignorato che porto, che ne va, ventura per te. Un grido dir famiglia manese, le micce accese, là sulla gran piazza. E se un mormore scoppi, una sola minaccia, mi comprendi, il faran. Or che accade laggiù, riguarda, puoi veder da quel verone la piazza di Bruxelles. Origine fatale di quel parto di ciò, quei miseri che son, che d'annunzio vecchio a fallire. Cospirato! I miei figli essi son, allegra, allegra. O ciel, che fare tu attenti? Il mio dover, dover inflessibile e sereno. Il mio quel di servire il re, il tuo, il padre tuo d'odiare. Di lor mercè, di lor mercè, che sia sospeso il cruento supplizio. E dritto il tu, per costor di pregar, tu, colpevol come sì, di grazia puoi parlar, io non lo devo al loro complice. Ad un figlio accordar, dove la pieda, dove mi chiami padre. Thank you. canta la maiala. Il supplizio sospeso e qui si entrati assieme. Sti lempi oscure, o fanciulla, perché vuoi tu miei troncar? Io figlia son del mondo, e vendicava il padre. Padre tuo, esser dell'ombra sua sublimamente altera, se tanto seppe a te ispirar. Stay supple. padre mio, fa che lo ignori a pare. Un sol giorno ancora, o se grazia non dai, io mi muoro. Al duca ed ebbe ogni per noi grazia trovar. Thank you. inosservato penetrava in questo sacro recesso, asil solitario consacrato alle lacrime. Qui move ogni sera a pregar per Padre suo. L'attenderò. La rivedrò. vacillo de suoi passi all'appressare. Siete me, più manchi una virtù. Oh, saluteran fra breve gli spalli di Lisbona, liberici guerrier. Addio, conquistata mia terra, e voi che ceppi al vinto bar, o spalli a Dio, su cui segnal di guerra sentono all'aste che vi ha conquistar. Ignotti a me furi trepidi alarmi, o le listine a mia fini fedel, di risognor la vittoria nostra armi, ad attestar che con noi stava in ciel. Oh, addio, conquistata mia terra, e voi che seppi al fin domar, o spalli a Dio, fu voi segnal di guerra, sventola l'aste che vi ha conquistar. Addio, addio, o forti spalli, o popol fier, da voi partir, or devil gran guerrier. Che vuoi tu, giovinetta? Accosta, e non temer, volgi lo sguardo a me. Sio, tal vista, la voce non, il mio braccio, il mio cuore. Parla. Creo che tu morto, imploro te un favore, in nome delle fiandre, venuto te sono io, lor voce da portare. Quali son? Questi sono... Che facesti? Il mio dovere, il genitor di Feli, fosse lo vendico a quest'angiol perdona, il lei perdoni a me quella giura il signor. Oh! soavi ancora. Stringimi,